Mix 24 estate di Giovanni Minoli. Bentornati su Mix 24 estate. Stiamo ripercorrendo anno dopo anno il decennio degli anni 70 tra musica e storia in compagnia di Alessandra Fiori e di Franco Schipani. Oggi siamo nel 71. Franco, come partiamo? Partiamo con il brano più venduto dell'anno, che è questo. Conosci me, la mia lealtà. Tu sai che oggi morirei per onestà. Conosci me, il nome mio. Tu sola sai se è vero o no che credo in Dio. Che ne sai tu di un campo di grano, poesia di un amore profano, la paura d'essere preso per mano, che ne sai? Lucio Battisti, pensieri e parole. Ciao a tutti, sono Franco Schipani. E io sono Alessandra Fiori. È il 1971 e l'economia americana è in crisi, soprattutto, Franco, a causa dei costi della guerra del Vietnam. E la crisi porta alla fine della convertibilità del dollaro in oro. Questa scelta radicale apre una fase di instabilità monetaria che dà il via a una crisi economica pesantissima. Ma intanto, oro, dollaro, che succede alla musica italiana? Si continua a cantare? Ma si cantano emozioni, Alessandra, emozioni che questo gruppo inizia a regalarci con continuità e generosità proprio dal 1971. Erano i Pooh, tanta voglia di lei e pensiero. Madonna, quanti brani di successo hanno fatto già dal 1971. Scusa, Franco, perdonami Franco, dimmi, però dimmi. Io mi chiedevo, tanta voglia di lei, cioè, ma tu l'hai capito lei quale? No, perché lui dice, cara amica di una sera ti ringrazierò, e però me ne devo andare. E certo, cioè, Ma perché erano molto promiscui, c'era lui, c'era lei. In pratica è la canzone dell'amante, cioè si può dire è la canzone delle corna, perché poi sai che c'è, no? Ma io non la prenderei sulle corna, io la prenderei sul libero amore, Alessandro. Allora, diciamo sul libero amore, però lui la sveglia pure per dirglielo, dice scusa cara, è stata bellissima, ma io me ne devo andare. Ma perché lui è subito, gli vuole far sapere a lei che gli sta... Che se ne va, però la pensa. La pensa. Quindi si giustifica. Va bene, comunque è romanticissima, tu hai altri romanticismi da presentare? Romantici, allora vediamo un po', questo è il periodo del romanticismo, perché insomma stanno facendo tutti dei pezzi stupendi. Vuoi sentirne qualcuno? Sì. Love Story di Francis Lay, anonimo veneziano di Stelvio Cipriani. Hai capito, Alessandra? Perché Bob, quando senti i Pooh, senti che questi musicisti alle spalle hanno questo background classico. Noi siamo italiani, noi veniamo da Rossini, mica da Elvis Presley. Noi siamo classici, però tu sei impazzito. Cioè, guarda, guarda in regia che sta succedendo. Allora, abbiamo Antonella Migliaccio, la nostra grande. Chi Antonella? Quella che piange. Piagne. Cioè, sì. Antonella piange. Gloria Guerrera, alle spalle del grande Chiappini, si soffia il naso, smocciola. Non è il caso, Franco, così non si fa. E poi ci sono dei film, delle musiche che non si possono citare, perché ognuno ha un cassetto del pianto personale e lo apre quando vuole, non è che lo puoi aprire così. È Love Story universale. Comunque, fammi capire, Love Story e Anonimo Veneziano sono una il rifacimento dell'altra, quindi cover, insomma. Quindi anni 50 e 60 ritornano, si rifanno i pezzi stranieri come prima, si continua così. Assolutamente, vedi che niente si crea, niente si distrugge, sono dei rifacimenti dei rifacimenti, comunque in forma ridotta, certamente. Queste però sono le cover più famose del 1971. Giusto essere liberi e amare così. Che ci importa del mondo, che importa la gente, che importa soffrire, che importa morire. Era bella quella donna. Domani è un altro giorno, cantava Ornella Vanoni. Era un brano di Tammy Wynette. Pensate, questa addirittura faceva country music nel sud dell'America. Si chiamava The Wonders You Perform. E poi Era bella, I Profeti, Nothing Rhymed di Gilbert O'Sullivan. Franco, ho capito tutto. Oggi siamo sul malinconico andante. Comunque, la Vanoni è uno di, dice, uno di quei giorni in cui ti prende la malinconia e domani si vedrà. E un giorno veramente triste e tragico per il nostro paese è stato proprio questo. Dal monte Toc, qui sul fianco sinistro della valle del Vajont, si stacca una frana di 260 milioni di metri cubi di roccia. Piomba nel lago, dietro la diga del Vajont, e solleva un'onda di solo 50 milioni di metri cubi d'acqua, che solo per metà passa dall'altra parte della diga, ma è più che sufficiente a spazzare via dalla faccia della terra cinque paesi: Longarone, Pirago, Rivalta, Codissago, Faè. 2000 i morti. Era Marco Paolini in apertura del suo spettacolo teatrale, uno spettacolo, Franco, che ha avuto un enorme successo, lo spettacolo teatrale sul Vajont. E proprio nel marzo di quell'anno, nel 1971, arriva la sentenza della Cassazione. Biadene e Sensidone, che sono dei dipendenti di Enel, Sade e del Ministero dei Lavori Pubblici, vengono riconosciuti colpevoli di un unico terribile disastro. Inondazione aggravata dalla previsione dell'evento, compresa la frana e gli omicidi. Una tragedia, quella del Vajont, che però non ci ha insegnato nulla, perché, come sappiamo, i disastri, anche ambientali, continuano a cadere. Ma Franco, prova un po' a tirarci sul morale. Dici cos'è successo quest'anno, nel 71, a Sanremo. Beh, ti faccio subito sentire il brano che ha vinto la manifestazione. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va. Catene non ha, il cuore è uno zingaro e va. Finché troverà il prato più verde che c'è, raccoglierà le stelle su di sé e si fermerà, chissà. Nicola Di Bari, il cuore è uno zingaro, numero uno. Però lui non avrebbe voluto cantare questa canzone. Ah, no? Avrebbe voluto cantare quella che è arrivata seconda. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto, forse niente, ma domani si vedrà e sarà, sarà quel che sarà. Che sarà dei ricchi e poveri? Perché ho detto che voleva cantare questa canzone? Perché? Perché questa è diventata poi il suo cavallo di battaglia in Sud America. Quando tu vai in Sud America... L'ha preso, l'ha scippato un pochino. Se l'è prestato. Se l'è prestato, mi piace, se l'è prestato. Però guarda, ha avuto successo questo pezzo sia nella sua interpretazione, sia quella dei ricchi e poveri, sia quella grandissima di José Feliciano. Scusami, però il Festival di Sanremo del 71, che è quello di cui stiamo parlando... Io mi ricordo un brano che non è tra quelli che abbiamo ascoltato, un brano, un pezzo bellissimo, vediamo molto se mi segue, molto particolare, che neanche stava arrivando, esatto, a Sanremo, che non ci doveva lui andare, però di questo, Franco, ne parliamo e ve lo facciamo ascoltare subito dopo la viabilità. Viabilità. Mix 24, musica e storia. Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare, parlava un'altra lingua, però sapeva amare. E quel giorno lui prese a mia madre sopra un bel prato, l'ora più dolce prima d'essere ammazzato. 4 marzo 1943 cantava Lucio Dalla al Festival di Sanremo insieme alla nuova equipe 84. Bentornati su Mix 24 Musica e Storia. Io sono Alessandra Fiori e con Franco Schipani stiamo raccontando il paese attraverso la storia e la musica, appunto. Intanto, Franco, dicevamo, Lucio Dalla a Sanremo nel 71. Non ci doveva neanche andare. No, ma figurati, eravamo in pieno, capito, trip censura Rai. Questo si presenta con un pezzo che voleva chiamare Gesù Bambino. Poi c'era questa donna che stava sul prato e veniva così semi-violentata da un marinaio, non si capisce bene, per carità, questo un Gesù Bambino. Forte. E poi dice, metti una data, ha detto, vabbè, 4 marzo 1943, va bene, approvata. E finalmente è andata a Sanremo dove ha avuto un grandissimo successo. E beh, ci credo, perché è una canzone pazzesca, è meravigliosa. Comunque, senti, ma intanto, in questo 1971... ci siamo ripresi dallo scioglimento dei Beatles? Ma stai scherzando? Ma tu non sai che ci sono stati analisti, psichiatri che hanno guadagnato fortuna in quel periodo perché c'erano torme di teenagers che andavano, dovevano farsi curare da questa Beatlemania dipendente. Cioè, sta parlando proprio di cose dall'altro mondo. Comunque loro, certamente, i Beatles, non è che a un certo punto se ne sono stati con le mani in mano. Every day she takes a morning bath, she wets her hair, wraps a towel around her as she's heading for the bedroom chair. It's just another day, slipping into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her raincoat. Another day, Paul McCartney, Power to the People, John Lennon, What is Life, George Harrison e My Sweet Lord, sempre di George Harrison. Avete visto i Beatles come erano diversi una volta che si sono sciolti? Comunque quest'ultimo brano che avete sentito, poi si è scoperto che George Harrison l'aveva copiato, insomma, da qualche parte. Era un gruppo che si chiamava The Chiffons e loro gli hanno fatto ovviamente causa, hanno vinto la causa. George Harrison ha pagato un sacco di soldi. E poi che è successo? Che il manager di George Harrison ha detto: ma questi qua hanno fatto un sacco di soldi, e si è comprato la compagnia discografica della piccola etichetta che aveva fatto casa a George Harrison. Capito soldi, come funziona il business. Comunque volevo ringraziare Alessandro Chiappini, che è il nostro master chef in regia, perché noi ci mettiamo gli ingredienti, poi lui che cucina, noi facciamo soltanto il figurone dei mix, poi insomma è responsabile lui, nel bene o nel male, quindi non so. Senti un po', Franco, scusa, ma questa canzone, questa di George Harrison, al mio orecchio ignorantissimo, mi fa molto Beatles, mentre Power to the People, John Lennon, mi sembra potere al popolo, e non era l'unico a dirlo, magari non proprio nella stessa forma, perché nel settembre del 1971 a Roma c'è il congresso di potere operaio e si organizza. A capo dell'area segreta e armata c'è Valerio Morucci, Oreste Scalzone è responsabile politico e Franco Piperno il segretario. Quindi il livello della lotta si alza, e in un'intervista del 1983 Berlinguer risponde a Piperno sul rapporto tra terrorismo e compromesso storico. Senta, Piperno, Franco Piperno, l'ex leader di potere operaio, qui a Mixer ha detto che elemento scatenante del terrorismo fu la politica del compromesso storico, nella versione diciamo tradizionale, perché impediva all'opposizione di avere il suo spazio. Lei cosa ne pensa? Questo penso, rischio l'ha visto? Penso che l'analisi sia sbagliata, ma confermi che uno dei bersagli del terrorismo era il Partito Comunista. Beh, compromesso storico nel suo insieme, insomma. No, il Partito Comunista con tutta la sua politica, la sua strategia. Però è morto realmente Moro. Innovativa del, però è morto Moro. Dell'assetto sociale e politico italiano. È morto Moro, però. Per il compromesso storico. Morto Moro perché Moro era l'interlocutore più valido e più intelligente del Partito Comunista. In attesa del compromesso storico, intanto in Italia, mio caro Franco, dopo il divorzio arriva un altro cambiamento epocale. Senti un po'. Roma. La Corte Costituzionale ha deciso. Non è più reato parlare del controllo delle nascite in Italia. Sì alla pillola, dunque, senza l'ipocrisia delle false ricette, delle finte indicazioni. Ma quante marche sono in commercio? 20, una più, una meno. E il costo? Varia anche quello. 650, 720, 1000, 1200, 1500 lire. Cosa ne pensa della pillola? Della pillola, per non fare figli? Dico che sono bestie quelle che mettono la pillola, è perché quella è una cosa fuori natura. Secondo me la pillola è pericolosa. Nel mio paese quasi tutte le donne prendono la pillola. Lei cosa ne pensa della pillola? Tutto il bene possibile. Franco, ma li senti? Voglio dire, divorzio, pillola legale e pubblicizzata. Però io ti voglio far sentire un'altra pubblicità che mi ricordo tanto, mi ricordo benissimo. Guarda come ti diverti, mi guarda piace la tua tanto, faccetta, te la voglio guarda. Far sentire. Sentila. I'd like to buy the world a home and furnish it with love. Grow apple trees and honey bees and snow white turtle doves. I like to teach the world to sing, sing with me. La Coca-Cola. E guarda, io me la ricordo, ma sai, ho un sospetto che siccome nessuno capiva all'epoca cosa stessero dicendo questi, secondo me c'erano le mamme che la cantavano come ninna nanna ai bambini. Ecco perché dopo, una volta cresciuti, sono diventati addicted alla Coca-Cola. Questa è quello il motivo, ecco, non è tutte perché le ricette che hanno fatto. Ah, deve ecco essere quello. Perché adesso ho capito. Comunque, scusa, prima parlavi della pillola tu, quindi la pillola che non faceva rimanere incinte, poi hanno fatto una pillola blu per darti la possibilità di farla incinta recentemente. Boh, non lo so, no, è una storia, Franco, non ti addentrare, non ti addentrare, Franco. Okay, andiamo. Okay. Diciamo, nel 71 ci sono i primi divorzi. No? Nel 70 legge sul divorzio, 71 i primi divorzi. Ma intanto ci sono anche dei matrimoni artistici, diciamo, che continuano, non continuano, voglio dire, Mogol e Battisti, Battisti e Formula 3. Direi proprio di sì. Nel 1971 Mogol e Battisti sono ormai una coppia di fatto e hanno dei figli che si chiamano Formula 3. Pensiero e parole è il 45 giri più venduto, ma anche questi altri due 45 giri non sono andati mica poi tanto male. No, Alessandra. No, fermo, adesso è il momento del GR e noi ve li facciamo sentire subito. Mix 24, musica e storia. Dio mio no! Dio mio no! Dimmi solo che verrà! Dio mio no, Lucio Battisti, anche per te, sempre dello stesso Battisti. Bentornati su Mix 24, musica e storia. Io sono Alessandra Fiori, lui è Franco Schipani, Frank. Stiamo raccontando il paese attraverso la storia e la musica, ma intanto, Franco, io ti devo dire che a me questi due brani, a dirti proprio la verità, non è che mi sembrino poi così rivoluzionari, cioè forse sono un pochino diversi, ma sempre al mio orecchio ignorantissimo mi sembrano simili a quelle atmosfere che Battisti... No, ma non ti buttare giù, Alessandra, mio ignore che... Guarda, tu forse sei abituata a successi più commerciali, a canzoni più conosciute. Subito, tu sei commerciale, subito, ecco, va bene. Comunque vabbè. Dimmi. Beh, insomma, questi brani sono decisamente un po' diversi. Comunque sono sempre vicini alle atmosfere di Battisti. E comunque, guarda che Battisti, proprio in quel momento, guarda, sta partendo per la tangente. Le tre verità di Lucio Battisti, sono sicuro che questa non la conoscevi, vero? No. Panico. Allora, pensa paura. Ma pensa il panico invece nel bar che era negli uffici, negli studi della RCA di Roma, no? Devi sapere che l'RCA a Roma, sulla via Tiburtina, era questo enorme complesso. Tu entravi cantante, dall'altra parte usciva il disco già fatto con la copertina. Era tutto tenuto in famiglia. Però il vero business e le vere cose non è che si decidevano negli uffici, allora l'abbiamo fatto la riunione col promoter. Si decideva al bar capivi chi era amico di quello, il musicista, il batterista che adesso stava lasciando quell'altro. Quindi quando arrivava Battisti, che era il disco dell'anno per l'RCA quasi sempre, panico. Nel momento in cui hanno sentito questo pezzo hanno detto... Madonna, oddio, che cosa si è inventato Battisti quest'anno? Ecco, il bar delle RCA era un po' come il transatlantico lì a Montecitorio, capito? La buvette, brava. Ma a proposito di buvette, Montecitorio, transatlantico, in quell'anno, nel 1971, ci sono le elezioni amministrative in Sicilia e vedono l'exploit dell'MSI. Il momento più importante fu probabilmente il 13 giugno del 71. Elezione in Sicilia. Il risultato che ci vede al primo posto arriva, non voglio dire come un fulmine a ciel sereno, perché è l'opposto, come un raggio di sole in mezzo alle nubi. Il partito da un partito ad una cifra, 3-4%, supera il 10%, in alcune città anche arriva al 20%. A Catania, che è una città, il Movimento Sociale superò il 30%, il 30% di voti, cioè era una forza. Erano Ignazio La Russa, lo storico Roberto Chiarini e infine Emanuele Macaluso. E devi sapere, caro Franco, che proprio grazie ai voti di alcuni esponenti dell'MSMI, il 24 dicembre del 1971 viene eletto Presidente della Repubblica Giovanni Leone. Pensa, 24 dicembre, perché la vigilia di Natale? Perché ci sono voluti 23 scrutini. E il vero sconfitto di quella elezione è stato... Presidente Fanfani, da 3 anni le chiedo questa intervista. Da 3 anni mi dice di no, adesso ha accettato, perché? Prima di tutto per levarle l'incomodo di richiedermela e in secondo luogo perché mi pare il momento in cui uno scambio di vedute tra lei e me può essere di qualche giovamento. Ecco, e non è perché la corsa alla Presidenza della Repubblica prima era meglio farla in silenzio? No? Ma io per la verità non ho fatto nessuna corsa, ogni tanto mi hanno buttato fuori. Con la storia del rieccolo l'hanno inventata loro. Ecco, comunque lei 4 volte è già stato buttato fuori, nel senso che ha partecipato alla corsa alla Presidenza della Repubblica e 4 volte è stato sconfitto. Le pesa molto? Molte volte, anzi tutte 4 volte, non sono arrivato alla sconfitta. Mi sono ritirato prima quando ho constatato che la mia presenza poteva turbare la convergenza necessaria tra i partiti e anche lo spirito degli altri concorrenti. Così Fanfani commentava la sua mancata elezione. Ma Franco invece, a me Battisti, che sai, mi piace, mi raccontami ancora di Battisti. Ma Battisti è la gallina delle uova d'oro, a un certo punto lui si vuole evolvere, vuole fare un'altra cosa, però i suoi pezzi sono incredibilmente commerciali, allora che fa? Semplice, li affida ad altri. Ma che disperazione, nasce da una distrazione, era un gioco, non era un fuoco. ritorno solo. Lei ritorna a te. Alzo gli occhi al cielo per chiedere perché e maledire te. Tu dammi la fede persa, tu l'azzurro in cuore versa. Tre brani della Formula 3, Eppur mi son scordato di te, Io ritorno solo e La folle corsa, ma il vero capolavoro della coppia Mogol-Battisti nel 1971 viene affidato alla regina della musica italiana. Amor mio, Mogol e Battisti scrivono musica e parole, la canta Mina. Franco, scusami, è bellissima la canzone, ma diciamoci la verità, con quel tono, quella voce, Mina, non so, può cantare pure la lista della spesa. Dai, Franco, comunque d'accordo, senti. D'accordo. Sì, ma mi dici, dimmi dai, ce ne sono altre? Chi sono le altre regine della musica? Beh, se ce ne sono alcune, adesso te le faccio ascoltare. Non ti scaldare, per favore, un Alessandra. Pochino, un pochino, sì. Tu non vivevi senza me. Hai l'amore, hai l'amore. Prima sapevi il perché. Hai l'amore, che cos'è? Ma che musica, che musica, che musica, maestro. Questa bella sinfonia, il mondo canterà. La guerra era finita, ma però ricordo che La Filanda, Milva, ma che musica maestro, Raffaella Carrà, Via dei Ciclamini, Orietta Berti. Scusami Franco, Alessandra, ma l'hai voluto tu. No, no Franco, non così, non l'ho voluto così. Ma comunque detto questo, ma siamo sicuro che siamo nel 71? Perché mi sembra confermato. Confermato, dammi una prova. Confermato. Voglio la prova. Che prova vuoi? Non che siamo nel 71? Eh sì. Va bene, ti faccio sentire un'altra bellissima canzone. Bravo. Di una splendida interprete. Bravissima. Non c'eravamo più, non cantavamo più, non ti serviva più. Cosa è mancato a te, che non hai dato a me? Volevo essere proprio come volevi tu. Batti Pravo con Tutto al più e Non ti bastavo più. Ma lo sai che a me Batti Pravo mi ha sempre saputo di signora della musica? Voglio dire, non che le altre non lo fossero, però lei mi sape particolarmente signora, anche un po' sciura. Si può dire che poi sul significato di sciura si potrebbe discutere tantissimo, però un pochino ma sciura. Ma guarda, era veramente una signora molto generosa innanzitutto. Io la prima volta che sono andato a casa sua mi ricordo che aveva due pianoforti dentro casa, uno bianco e uno nero. Juve. Non credo che ti fasse per il Venezia in quel momento preciso, ma comunque una cosa che mi è rimasta proprio impressa è il fatto che lei aveva una quantità di vestiti spettacolare. Ma che cosa brutta, non ci piace per niente. Senti, comunque una che sciura non era, senti cosa diceva. Un uomo può indossare ciò che vuole, resterà sempre un accessorio della donna. Oppure, perché tu secondo me non hai capito di chi sto parlando. La stessa donna diceva anche: nessun uomo ti farà mai sentire protetta e al sicuro come un cappotto di cashmere e un paio di occhiali scuri. Se tu ancora non avessi capito, io ti dico che sto parlando di Coco Chanel, che il 10 gennaio del 1971, dopo aver cambiato la moda femminile ma sul serio, muore a Parigi all'Hotel Ritz, in un posto che, diciamolo, degno di lei. E ancora a Parigi c'è un'altra illustre scomparsa, che è quella di Jean Morrison. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your again. Ma intanto, l'estate del 1970. L'estate è il secondo grande appuntamento dell'anno dopo Sanremo, ovviamente. Cosa si ballava nel 1971 sulle nostre spiagge? Siamo in tanti sul treno, occhi stanchi. Tweedledee, Tweedledum, Middle of the Road. Poi c'erano i Top of the Pops con Miami Blue, Wild World di Jimmy Cliff e ovviamente Casa Mia, la nuova Equipe 84. Beh, Franco, bellissime, e su Wild World c'è stato anche un po' di movimento, in regia sono ricomparsi gli accendini, le ho viste ballare, vabbè, cantare. Però io mi chiedevo, ma non c'è niente di un po' più tosto, un po' più... E lo sapevo che a questo punto si sarebbe risvegliata la rocchettara che è in te. Black Sabbath, Hot Love di T-Rex, Black Knight di Deep Purple e Hey Tonight, Creedence Clearwater Revival. Allora Alessandra, ti è bastata questa botta di vita elettrica? Eh? Direi di sì, caro Franco, e ti rispondo però con una botta di vera poesia. Muta, sei semplice come una delle tue mani, liscia, terrestre, minima, rotonda, trasparente, hai linee di luna, sentieri di mela. Nuda, sei delicata come il grano nudo. Nuda, sei azzurra come la notte a Cuba. Mi apri questa, per favore. È scritta in straniero, no? Sì, viene dalla Svezia. Al premio Nobel di letteratura. Se me lo danno, non lo rifiuto. Allora glielo danno, sicuro. Quest'anno era il postino con Massimo Troisi, perché Franco, il 1971 è l'anno in cui finalmente Pablo Neruda vince il Nobel per la letteratura, ma è anche l'anno in cui esce Il giardino dei finzi contini, quello di De Sica, ovviamente, che nel 1972, cioè l'anno prossimo, farà vincere per il secondo anno consecutivo l'Oscar all'Italia per il miglior film straniero, perché questo invece è l'anno in cui vince Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. E intanto, perché non basta, Pasolini con Decameron vince l'Orso d'Argento al Festival di Berlino. Ma tu, questa musichetta di sottofondo, questa qua, la riconosci? Sì, la senti l'angoscia che sale? Che aumenta? Perché sempre nel 71 esce anche un altro capolavoro, questa volta di Kubrick, che praticamente ha fatto solo capolavori, lo possiamo dire? Lo possiamo dire, confermato. Esatto, è un film che inquieta, che scatena polemiche, censure, e è Arancia Meccanica. Perché nel 71 esce anche un altro capolavoro di Kubrick, perché poi, lo diciamo, lui ha fatto solo capolavori. Confermato, film bellissimi, pazzesco, stupendi. E comunque questo è un film particolarmente inquietante, violento, che ha sconvolto i nostri giorni e le nostre notti. Qualcuno piccolo, cioè, c'ha però avuto gli incubi. Però non possiamo lasciare il nostro ascoltatore con qualcosa di inquietante. Hai qualcosa di un po' più assolutamente soave? Assolutamente, beh sì, ci vuole. Dai, facci sentire. È un brano che stupendo, cosa? Di Bruno Lauzi, che ha scritto nel 1971, però recentemente lo ha proposto Biagio Antonacci. Allora, amore caro, amore bello, ciao a tutti da Franco Schipani, da Alessandra Fiori. Ci vediamo nel 1972. Quindi, domani. Sincera come l'acqua di un fiume di sera, trasparente pur sembri nera, amore caro, amore bello, non ti voglio. Ma cosa accade?